782. Ciliegie visciole in guazzo. Queste ciliegie così conciate non hanno bisogno di spirito, che lo fanno da sé. Ciliegie visciole, chilogrammi 1, zucchero bianco, chilogrammi 300, un pezzetto di cannella. Dalle suddette ciliegie, separatene grammi 200 delle più brutte o guaste. Estraetene il sugo e passatelo. Le altre, levato il gambo, mettetele a strati in un vaso di cristallo. Uno di esse e uno di zucchero. Poi versateci sopra il detto sugo. Levate le anime a una parte dei noccioli delle ciliegie disfatte ed anche queste, la cannella, gettatele nel vaso. Chiudetelo e non lo muovete per 2 mesi almeno. Vedrete che lo zucchero, a po' per volta, si scioglierà e le ciliegie dapprima staranno a galla del liquido. Poi questo, convertendosi in alcol, le ciliegie cadono al fondo e allora sono mangiabili e buone.